Produzione delle merci, inizio del capitalismo. Produzione delle merci, inizio del capitalismo. Denaro, merce, denaro, più ancora denaro. Denaro, merce, denaro, e ancora denaro. Comprare per vendere, comprare per vendere. Lo scopo è il guadagno incessante, non la sua utilità. Lo scopo è il guadagno incessante, non la sua utilità. La circolazione non crea valore, la forza lavoro lo fa. Circolazione non crea valore, la forza lavoro lo fa. Ti voglio lavoratore libero, individuo e privo di mezzi. Ti voglio lavoratore libero, individuo e privo di mezzi. Io pago dopo averti consumato, tu mi fai credito. Io pago dopo averti consumato, tu mi fai credito.